Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Si dice spesso che dietro a ogni grande uomo ci sia sempre una grande donna. E dietro a ogni grande cantante? Battisti ha vissuto vari periodi artistici. Ha usato la sua notevole estensione vocale, ha giocato con alti e bassi, con un pizzico di raucedine e qualche acuto in falsetto. È passato da qualcosa che poteva assomigliare ai Beatles per approdare ad una sorta di techno. Ha cambiato parolieri, poeti e suggestioni. In questo tributo a uno dei più grandi nomi della canzone italiana, Lucio Battisti, c'è un termine che risalta in modo particolare: paroliere. Dietro a ogni grande cantante c'è sempre un grande paroliere, e di certo Mogol ne sa qualcosa. Lucio, quando scriveva con me, scriveva la musica prima, quindi mi arrivava una canzone che lui cantava in inglese maccheronico, come sempre accade, cioè che non aveva nessun senso, e io scrivevo le teste, il testo, lui mi accompagnava la chitarra, stava lì con me. Il sodalizio Mogol Battisti è certamente stato uno dei più prolifici della musica nostrana. Si trattava di una coppia collaudata e ben nota al pubblico. Eppure esistono anche casi in cui il ruolo del paroliere, ovvero di colui che scrive i testi affinché qualcun altro li renda melodia, è più nascosto e defilato rispetto alla presenza ingombrante di un Mogol. A volte il nome dell'autore del testo è sconosciuto, altre volte però può rivelarsi addirittura insospettabile. Tu dormi, io sono qui. Quanto non lo so, so che affondo così dentro l'odio che ho. Ci sembra superfluo dirlo, ma la voce che sentite è quella della grande Mina, interprete nella sua lunga e fortunata carriera di testi scritti da numerosi autori. Uno di questi è noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di conduttore televisivo. Allora, con Giovanna abbiamo parlato ovviamente di Paolo Limiti, questo grande autore musicale e televisivo che ci manca molto, io lo dico, tanto... Ma ritorniamo, così. Molto presto. Me lo auguro. Forse in molti lo ricordano per via di Flora Dora, il buffo cane di peluche che restava appollaiato alla sua spalla nel corso della trasmissione Ci vediamo in TV. Ma Paolo Limiti non ha certo passato la sua vita a dialogare con un cane di pezza. Si è dedicato piuttosto alla scrittura dei testi di alcune delle più belle canzoni della musica leggera italiana. E come lui ci sono molti altri autori davvero inaspettati. Lei, sì? Molti non lo ricordano perché ormai lei fa un po' di tutto, no? Ma è stato un grande poeta della canzone italiana. Il grande poeta di cui si sta parlando è uno dei personaggi più esteticamente discutibili apparsi sul piccolo schermo negli ultimi anni. Per l'amore, e più per fare bella figura in amore, meglio. Per fare bella figura in amore, è meglio una bella poesia o il Viagra? Sentiamo la risposta di Cristiano Malgioglio, poi torno sulla poetessa Anna Merini. Ma per me sicuramente una bellissima canzone. Meglio del Viagra? Ma certo. Lei l'ha mai preso, al contrario? Io non so neanche che cosa... Ma che ambrotti, no, scusi, mi metti in imbarazzo, esatto, io non so neanche che cosa sia questo Viagra. Difficile scordarsi l'immagine di questo signore di mezza età, truccatissimo e coi capelli tutti in piedi sormontati da un vistoso ciuffo ossigenato proprio sopra la fronte. Cristiano Malgioglio, in qualità di opinionista tuttofare, ha collezionato simpatie e antipatie, adoratori e detrattori, oltre a un'invidiabile collezione di parodie. Che bello, ma che bello che è Natale. Abbiamo già in onda Cristiano Malgioglio. L'albero, il presepo. Presepe. Pronto, sono Cristiano Malgioglio, vi certo. Ricordate? Certo che sono il cantante degli anni 70, che adesso faccio l'opinionista in TV. Opinionista e cantante, ma soprattutto autore di liriche ispirate, tanto da meritarsi l'appellativo di poeta. E non si può proprio dire che le sue parole messe in bocca ad altri abbiano fatto brutta figura. Fammi morire ancora, perché ti amo ancora. Ah. Quello del paroliere è un mestiere spesso nell'ombra, esaltato solo dalle doti vocali e dalla presenza scenica di chi, all'atto pratico, tiene in mano il microfono e sale sulla ribalta del palcoscenico per farsi ammirare. Senza i parolieri, tuttavia, molti degli artisti che amiamo non sarebbero mai riusciti a spiccare il volo verso il successo. È proprio da uno di questi misteriosi cesellatori diversi che vogliamo partire a raccontarvi la storia di oggi. È probabile, anzi è quasi certo, che non abbiate mai sentito pronunciare il suo nome. Il poeta occulto che stiamo per conoscere si chiama Bernie Taupin. Bernie Taupin. Siamo in Inghilterra, e più precisamente nella contea del Lincolnshire, sconfinata terra di prati, campi e coltivazioni. Bernie Taupin nasce in un giorno di primavera del 1950. La sua casa, per i primissimi anni dell'infanzia, è una fattoria diroccata e sperduta nel bel mezzo della campagna, dove non arriva nemmeno l'elettricità. I Taupin non sono certo ricchi, e la fantasia per il piccolo Bernie si rivela l'unico giocattolo disponibile. Ama scorazzare all'aperto insieme ai fratelli, perdere il suo sguardo di bambino nel verde brillante della vegetazione di maggio, sdraiarsi sull'erba fresca e guardare le nuvole che scorrono veloci e gonfie come mucchi di panna montata. Per lui la lontananza dalla civiltà non rappresenta un limite, ma una conquista. La sua immaginazione si nutre avidamente grazie all'osservazione di quello che lo circonda. Sente che per la sua crescita personale vale molto più un paesaggio silenzioso di qualunque formula scritta alla lavagna. La scuola è una costrizione per Bernie. I libri, i banchi, i grembiuli e le divise, estrema forma di omologazione tipica del sistema scolastico britannico, rappresentano un vuoto insieme di sovrastrutture in cui ingabbiare la creatività e l'immaginazione, anziché promuoverle. L'unica cosa che non gli sta stretta, le uniche pagine sulle quali non sente il peso di chinarsi, sono quelle bianche, ancora totalmente vergini e intonse dei suoi quaderni. Fogli candidi come le nuvole che ama guardare da lontano nei pomeriggi di quiete campestre, pagine nuove su cui scrivere le impressioni regalategli dal paesaggio, gonfie di suggestioni, di sussurri del vento tra le foglie. Studiare non gli piace, ma scrivere è un'altra cosa. Strano a dirsi, ma il disagio pratico, dato dal vivere in un luogo tanto remoto, un giorno si rifletterà positivamente sulla sua futura professione. His obvious love of the countryside is often reflected in his lyrics. Il suo enorme attaccamento ai paesaggi di campagna si riflette molto spesso nei testi delle sue canzoni. Ci sono momenti difficili quando le mie parole non rimano e le colline che mi stanno di fronte sono una lunga e dura scalata. Questi versi esprimono tutto il disagio di un giovane costretto ad abbracciare le consuetudini invece di seguire naturalmente il suo istinto. Ed è proprio questa forma insopprimibile di autoconservazione che spinge il giovane Bernie, appena quindicenne, a lasciare la scuola per inseguire un futuro diverso, lontano dalle costrizioni e plasmato piuttosto sul suo desiderio di emergere. Bernie ha solo 15 anni, un po' presto per tentare di condurre una vita autonoma e indipendente, priva di qualunque sostegno della famiglia. La soluzione è barcamenarsi, tentare qualunque strada possibile per mantenersi e arrivare a fine giornata. Ben venga allora qualunque lavoro, dal fattorino al lavapiatti, pur di mettersi in tasca qualche soldo. Ero un ribelle, non mi andava bene niente. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di restare libero, libero di prendere le mie decisioni, non seduto dietro ai banchi ad imparare idee che erano già appartenute ad altri. L'unico modo che avevo per sentirmi padrone dei miei pensieri e di rivendicarli come miei era metterli per iscritto. Mi è sempre venuto naturale. Ma l'esercizio della scrittura così, en passant, per hobby, non basta a soddisfare i bisogni di un adolescente dalla mente fervida e dalla fibra irrequieta. Dal mattino alla sera, Bernie si spezza la schiena facendo lavori di ogni tipo, mentre la sua mente viaggia libera nei territori dell'immaginazione e della poesia. Ma il destino ha in serbo per lui una grossa, grossissima sorpresa. Bernie Berni spulcia ogni giorno i quotidiani locali e le riviste alla spasmodica ricerca di qualche impiego o anche solo di una piccola proposta di lavoro. È stanco di dividere le sue giornate tra le officine e il bancone del pub, al costante inseguimento di impieghi saltuari e improduttivi. Vorrebbe riuscire a fare della sua unica passione, quella per la scrittura, un mestiere a tutti gli effetti. Un pomeriggio, mentre aspetta che inizi il suo turno per servire ai tavoli di un locale, sfoglia distrattamente una rivista musicale, il New Musical Express. La sezione annunci solitamente non offre un granché, ma in quella mezz'ora Berni non ha di meglio da fare che starsene lì a leggiucchiare svogliatamente, perdendosi nelle sue solite lucubrazioni. Un piccolo riquadro, però, cattura la sua attenzione. Sono poche parole, ma sono abbastanza per farlo sognare ad occhi aperti. Cerchiamo talenti. Contattaci. 020 7765 2885 Liberty Records. La Liberty Records è una piccola etichetta londinese alla ricerca di fenomeni da lanciare sul mercato discografico. Berni risponde all'annuncio. Se quello che la Liberty Records sta cercando è un generico talento, perché non può trattarsi di un'attitudine alla scrittura, anziché, come verrebbe più facile pensare, alla musica? Le canzoni, dopo tutto, sono poesie melodiche, dove le due componenti, quella del testo e quella del sound, non possono fare a meno l'una dell'altra. Il suo approccio semplice ed immediato, la sua vividezza nel dipingere gli scenari, sono caratteristiche che certamente possono interessare un produttore di musica pop. Non ho mai voluto essere un filosofo, né scrivere canzoni politiche o di protesta. A Berni non interessa fare l'autore impegnato. In fondo ha solo 17 anni. Tutto quello che gli importa è gridare forte la sua personale visione del mondo e vuole farlo attraverso le parole. Ancora non sa che lì fuori c'è qualcun altro che, proprio come lui, sta scalpitando per trovare la propria dimensione. Questa persona, come Berni, legge quell'annuncio sul New Musical Express e in esso intravede un futuro glorioso, diverso da quello che sta vivendo, fatto di sforzi immani e poche soddisfazioni. Anche lui, come Berni, è un talento che aspetta solo di essere scoperto e valorizzato. Anche lui sceglie di rispondere alla chiamata del destino. In un grigio appartamento del centro di Londra, in un grigio pomeriggio che ha tutta l'aria di essere quello di un giorno qualunque, due ragazzi si trovano seduti nello stesso corridoio scarsamente illuminato che funge da sala d'aspetto. Al di là della porta a vetri che li divide dal successo, si intravede la sagoma di Ray Williams, il produttore che ha voluto pubblicare quel piccolo ma capitale annuncio sul New Musical Express. Due ragazzi in trepidante attesa, con le mani sudate, le palpitazioni e le gambe che non sanno stare ferme. Uno è Berni Taupin, talentuoso autore di poesie. L'altro è un musicista, un pianista geniale e formidabile, che è stanco di fare il turnista suonando per la gloria di altra gente. La musica è il suo pane quotidiano. Io so scrivere la musica, ma non so proprio scrivere i testi. Ci ho provato, ma è una catastrofe. Un appassionato scrittore di testi, Berni Taupin, è seduto accanto a un talentuoso musicista che di nome fa Reginald Kenneth Dwight. Un nome decisamente barocco, forse un filo pomposo per un ventenne dall'aria timida che spera di sfondare nel mondo del pop. I didn't like Reg from the word go. Beh, Reginald non è certo un nome che associ immediatamente con un ragazzo giovane. È un nome orrendo e poi è tipicamente da adulto. È uno di quei nomi da buona borghesia che non mi sono mai piaciuti. Io ho passato una bella infanzia, ma appena ho potuto sbarazzarmi di quel nome, l'ho fatto. Anche perché non ho mai pensato che mi rappresentasse. Mi è sempre suonato come qualcosa di estraneo. Ci voleva qualcosa di più romantico. Reginald Kenneth Dwight decide di cambiare il suo nome. Se davvero vuole sfondare nel mondo della musica, gli serve un appellativo più accattivante. Prende in prestito quelli di due strumentisti con cui ha avuto la fortuna di suonare negli anni addietro, Elton Dean e Long John Baldry. Il risultato è ormai ben noto a tutti. Reginald Kenneth Dwight si trasforma in Elton John. Elton John. Per forza si cambia. Non credete a nessuno di quelli che vi dicono che il successo non li ha cambiati. In quel lontano 1967, il successo sembra ancora lontano. È solo una speranza, una meta che Berni Taupin ed Elton John sognano di poter raggiungere. Ancora i due non sanno che sarà dall'unione dei loro talenti che scaturirà uno dei sodalizi più fortunati e acclamati della musica pop. È un uggioso pomeriggio del 1967. Berni ed Elton hanno appena 37 anni in due e non immaginano che le loro vite stanno per cambiare radicalmente. Basterà un attimo perché si trasformino in due giovanissime star del firmamento musicale. Destini incrociati. Destini incrociati a Londra, nella sede della Liberty Records. Due giovani assetati di successo stanno seduti l'uno accanto all'altro, in attesa di risposte. È Ray Williams, il discografico che ha pubblicato un piccolo annuncio sul New Musical Express, a fornirgliele. Bernie Taupin e Reginald Kenneth Dwight, paroliere e musicista, devono assolutamente lavorare in coppia. Ecco i due nomi che da questo momento in poi staranno dietro al clamoroso successo di Elton John. Senza Bernie praticamente si può dire che Elton John non sarebbe esistito. Taupin ed Elton John iniziano a lavorare insieme, formano un duo perfetto. Non solo hanno un intento comune, ma condividono anche i gusti, come ricorda lo stesso Taupin. Ci sono molti risvolti artistici in cui noi siamo molto simili. Ci piace comprare dischi e libri e ne abbiamo un'enorme collezione. Ci piace condividere le cose. Il duo inizialmente si mette al servizio altrui. Per i primi tempi, Bernie ed Elton scrivono testi e musiche per conto di altri artisti contemporanei. D'altronde, le logiche di sfruttamento tipiche del mercato discografico impongono, come ovvio, di attingere all'enorme talento nascosto dei due nuovi creatori, evitando però di esporli e utilizzando al loro posto l'immagine già consolidata di qualche cantante da tempo sulla breccia. Quella di Taupin e John, in effetti, è una macchina praticamente perfetta. Una catena di montaggio dai ritmi quasi industriali. Taupin sforna una manciata di testi in meno di un'ora, quindi li dà a John, che compone le musiche adatte in meno di mezz'ora, riadattando qualche parola solo se necessario. Questa è la brillante tecnica compositiva che mettono a punto sin dai primi tempi di lavoro insieme. E non si tratta affatto, come potrebbe sembrare, di un lavoro gomito a gomito. Io scrivo le parole, lui la melodia. Non abbiamo bisogno di sederci allo stesso tavolo e farlo insieme. Sono certo che se lo facessimo sarebbe un disastro. Forti di una tattica di composizione consolidata ed efficiente, nel 1968 i due fanno di tutto per uscire allo scoperto e ci riescono. Quello che sentite è I've Been Loving You, il primo singolo pubblicato da Elton John in collaborazione con l'amico e socio Taupin. Ma se di Bernie abbiamo ripercorso le origini e le inclinazioni, di Elton John, anzi di Reginald Kenneth Dwight, non sappiamo ancora nulla. Facciamo un passo indietro e vediamo da dove è partita una delle pop star più celebri ed eccentriche del pianeta. Reginald Kenneth Dwight nasce il 25 marzo del 1947 in una minuscola casa nei dintorni di Londra. Minuscola, sì, ma abbastanza grande da far spazio a un pianoforte a muro, che ben presto diventa l'oggetto feticcio dell'unico bambino di casa. Di certo non si può dire che all'infanzia della futura pop star sia mancata una degna colonna sonora. Fin da piccolo, infatti, la madre incoraggia Reginald ad ascoltare i suoi dischi, abitudine che si rivela fondamentale per lo sviluppo della sua precocissima sensibilità artistica. Io sapevo di voler fare il musicista da quando avevo 3-4 anni. C'è sempre stata musica in casa mia. Avevamo un pianoforte e io ho imparato presto a suonarlo. Mio padre suonava la tromba in una banda militare e mia mamma mi faceva sentire un sacco di dischi. Praticamente sono cresciuto con Nat King Cole e Doris Day. Ero costantemente circondato dalla musica. La musica per Reginald è più di un semplice sottofondo o di un allegro contorno alle sue attività. Col passare del tempo diventa il punto privilegiato di riferimento ed insieme lo scopo del suo agire. Se il talento è già di per sé una merce rara, quello di Reginald lo è ancora di più. Ho imparato a suonare ad orecchio. Solo in un secondo tempo sono effettivamente andato a lezione di pianoforte. In pratica, sapevo già suonare da solo. Reginald si siede al pianoforte non appena ha un istante libero. Strimpella e azzarda melodie con le sue piccole dita veloci, riuscendo in brevissimi lassi di tempo a inventarsi progressioni armoniche di straordinaria bellezza ed efficacia. Dopo aver trascorso i primi anni dell'infanzia, applicandosi da autodidatta allo studio della musica, la madre decide di iscriverlo a una scuola. Ma Reginald non è tagliato per i libri, anche se si tratta di quelli del conservatorio. Quello che gli importa è suonare. Nient'altro sembra renderlo felice e appagato. Là fuori c'è un mondo in fermento, e questo quello che pensa continuamente Reginald. La musica, ormai già da una decina d'anni, sta contribuendo a cambiare il mondo. Elvis Presley, i Beatles, i Rolling Stones sono i volti di una nuova società e di un nuovo modo di percepire la realtà. Reginald vuole a ogni costo prendere parte a questa metamorfosi. Negli anni 60, quando impazzavano i Beatles, io andavo a scuola. Avevamo 13-14 anni. E tutti avevano voglia di suonare in una band. Ce n'erano molte di più di adesso. Hanno influenzato con le loro canzoni, ma di certo anche molto con il loro stile. Quei tagli di capelli, le giacche che portavano. Per quel che mi riguarda, hanno certamente influenzato il mio modo di scrivere musica. La qualità delle canzoni scritte dall'accoppiata Lennon-McCartney è fuori da ogni discussione. Per inseguire il suo sogno, Reginald si dà da fare. A 15 anni comincia a suonare regolarmente al pub dietro casa, intrattenendo gli avventori del locale con le sue già mirabolanti performance al pianoforte. Si esibisce ogni sera, dal giovedì alla domenica, e guadagna 35 sterline a serata più le mance. Ma non sono certo i soldi la sua prima preoccupazione. Il lavoro al pub gli consente di esercitarsi, di fare pratica al cospetto di un pubblico in carne ed ossa. A 17 anni forma una band dal nome ambizioso, Bluesology, ma il successo stenta ancora ad arrivare. Quando io e Bernie ci siamo incontrati, grazie all'annuncio su quel giornale inglese, io suonavo in una band da ormai 4 anni e cominciavo ad essere stufo. E dunque c'era questa casa discografica alla ricerca di nuovi talenti, nuovi compositori di canzoni. Ho risposto all'annuncio, mi sono presentato lì e ho detto: mi serve un paroliere. Ed ecco che salta fuori Bernie. Un modo strano per conoscersi. Bernie Taupin salva Reginald da quello che ha tutta l'aria di essere un futuro incerto, fatto di duri e vani tentativi per raggiungere l'agognato obiettivo. Taupin fa di più. Consente a Dwight di compiere la sua metamorfosi e trasformarsi definitivamente in Elton John. A partire da quel pomeriggio del 1967, niente sarà più come prima. Averlo incontrato è stato davvero un colpo di fortuna. Anzi, è stato un segno del destino. Tutto quel che riguarda Elton John, altrimenti non sarebbe mai successo. Io sono debitore a Bernie per ogni suo pensiero, ogni suo sentimento. Sono loro ad animare le mie canzoni. Il primo disco che pubblicano insieme come coautori di testi e musiche è Empty Sky del 1969, ma è con l'omonimo Elton John dell'anno seguente che per il duo arriva il primo grande successo. La critica è entusiasta di come Elton riesca a rendere melodia le parole ora criptiche, ora teneramente ingenue di Bernie Taupin. Il secondo disco della coppia è anche il primo a essere pubblicato sul mercato americano. Ed è proprio qui che i due iniziano il loro trionfale percorso nell'Olimpo delle pop star. Beh, le cose sono andate più o meno gradualmente finché non siamo approdati in America per la prima volta. E abbiamo suonato al Troubadour a Los Angeles, dove c'erano all'incirca 250 persone, roba che noi non avevamo mai visto. E il giorno dopo si è sparsa la voce, e i giornali hanno scritto cose stupende su di noi, e il disco ha iniziato a scalare le classifiche. È cominciato tutto da lì. Praticamente abbiamo sfondato prima in America e poi in Inghilterra. Una sera dell'agosto del 1970, Elton John si esibisce al Troubadour di Los Angeles, storico locale che proprio in quegli anni vede fiorire sulle assi del suo palcoscenico le carriere di grandi artisti, tra cui gli Eagles, James Taylor e Joni Mitchell. Quella sera, però, è il turno di un timido ragazzo inglese appena sbarcato in America e ancora ignaro dell'enorme successo che sta per travolgerlo. It's a little bit funny. this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1970, agli albori della carriera di Elton John. Il cantante inglese, avvalendosi della fondamentale collaborazione di Bernie Taupin, suo paroliere di fiducia, sta letteralmente conquistando l'America. Pensavo che avremmo potuto avere successo in America. Ci speravo, ma non mi aspettavo niente del genere. È successo tutto così in fretta. Dopo lo stupefacente exploit al Troubadour di Los Angeles, Elton e Bernie iniziano a collezionare un'incessante serie di successi. I due sono poco più che debuttanti, eppure ricevono già la loro prima nomination ai Grammy Award, e non nella categoria miglior artista emergente, ma in quella prestigiosissima che premia il miglior album. 5 dischi in meno di 3 anni. La creatività di Taupin e John procede a ritmi serrati, praticamente inarrestabili. Ci fidiamo l'uno dell'altro. Francamente non so come faremmo altrimenti. Certo, la fiducia è un tassello fondamentale in un mestiere come il loro. Nessuno dei due adotta un metodo vero e proprio. Preferiscono entrambi che sia l'ispirazione a fluire indisturbata. Io non sono il tipo di compositore che si mette al pianoforte ogni giorno dalle 9 alle 5. Seguo l'ispirazione. So quando è l'esatto momento in cui sto per scrivere una canzone. Lo so e basta. Per Elton John, l'apporto di Taupin è fondamentale. Senza le sue poesie, senza quei suoi versi immaginifici, non sarebbe possibile rendere concrete e pulsanti le fantasie melodiche dettate dal genio di Elton. Viceversa, le liriche di Bernie non si animerebbero in assenza di John, restando solo dei testi su una pagina. C'è gente nel mondo dello spettacolo che dice che le parole non contano niente, ma è tutta una questione di beat, di ritmo. Lei che ne pensa? Le parole contano? Le parole contano e come, specialmente se poi ti tocca cantarle. È Elton in persona a rivendicare continuamente l'importanza di Bernie nel suo percorso artistico. Le parole, a quanto pare, contano ancor più della musica. Hanno un grosso significato per me. Per prima cosa le studio, poi mi metto a comporre la melodia. Credo che molta gente compri i miei dischi per via di quelle parole. Si siedono nei loro salotti e le ascoltano attentamente. Il processo creativo è un percorso spesso accidentato e misterioso. A volte invece si tratta solo di seguire le proprie intuizioni, assecondarle e spiccare il volo. È quello che ha fatto Bernie Taupin in un mattino qualunque, girovagando in macchina per la dorata campagna inglese, riecheggiando in qualche modo il tema e l'aura distante e malinconica di un grande pezzo come Space Oddity di David Bowie. Taupin si è inventato dal nulla Rocket Man, la ballata di un astronauta nostalgico, apparentemente così lontana dalla realtà di qualunque ascoltatore, eppure tanto struggente da diventare un successo senza precedenti. Non è che io mi sieda con l'intento di scrivere una canzone su questo o quell'argomento. Ad esempio, quando ho scritto Rocket Man, stavo semplicemente guidando la mia macchina e mi è venuta in mente la prima frase, quella che dice: lei mi ha fatto le valigie ieri sera prima del decollo, orario di partenza 9 del mattino, a quell'ora volerò in alto come un aquilone. Ero lì che guidavo e ho pensato fosse un bel verso. Poi sono arrivato a casa e ho scritto il resto. Anche il 1973 inizia l'insegna del successo. In gennaio esce il 6° album della premiata ditta Elton John Bernie Taupin, dal titolo Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ovvero Non sparatemi, sono solo il pianista. Il disco balza immediatamente al primo posto della classifica, trascinato da un singolo davvero contagioso, Crocodile Rock. Bernie Taupin ed Elton John sono instancabili. Nei primi anni 70 producono in media uno o due dischi ogni 12 mesi, riuscendo sempre a mantenere altissimo il livello qualitativo del loro lavoro. Sfornano album da sfoggiare con orgoglio nelle collezioni casalinghe e nello stesso tempo singoli accattivanti, perfetti per il bombardamento radiofonico. Credo che la maggior parte della musica pop sia usa e getta. Ce n'è in giro talmente tanto, ogni settimana esce una quantità incredibile di singoli e di album. E in un anno di questo costante bombardamento, quante canzoni diventano dei classici che verranno ricordati a distanza di 10 anni? 2, al massimo. E questi due classici, in quegli anni, sono con tutta probabilità opera di Elton e Bernie. Il successo e la fama travolgono Elton John e Bernie Taupin all'improvviso, con una forza devastante. E pensare che agli inizi della sua carriera Elton John non ne voleva sapere di entrare a far parte del rutilante mondo dello spettacolo. Tutto quello che contava per lui era poter esprimere se stesso per mezzo della sua musica. No, io non voglio entrare a far parte dello show business, no davvero. Eppure, nonostante l'apparente riluttanza iniziale, Elton John, in tutta la sua eccentricità e le sue stravaganze, si inserisce perfettamente nel bizzarro circo dello showbiz, tanto da diventare, nel corso degli anni, una delle star più acclamate non solo del firmamento musicale, ma anche del più generale mondo dello spettacolo. Quando nel 1997 la sua amica Diana, ormai ex moglie dell'erede al trono inglese, perde la vita in un terribile incidente automobilistico, per lui, come per molti milioni di sudditi e di spettatori sparsi in giro per il mondo, si tratta di una notizia agghiacciante. Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa sera. Chi meglio di Elton John e delle sue struggenti note di pianoforte possono prendersi cura dell'estremo saluto a Lady Diana Spencer? Elton sceglie di rivisitare un suo successo degli anni 70, Candle in the Wind, scritta in onore dell'indimenticabile Marilyn Monroe. Ed ora ascoltiamo Elton John, che esegue una speciale versione di Candle in the Wind con le parole scritte appositamente pochi giorni fa da Bernie Taupin. Se ad Elton John è toccato il compito più duro, ovvero eseguire il pezzo durante il funerale della principessa in una gremita Westminster Abbey, è anche vero che senza il riadattamento del testo della canzone per opera di Bernie Taupin, l'operazione non sarebbe stata così clamorosa. Candle in the Wind 1997 è entrata di diritto nel Guinness dei primati. È tuttora il singolo più venduto di tutti i tempi. Dietro al grandissimo Elton John si nasconde un unico segreto e il suo nome continua a essere Bernie Taupin. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Your legend ever will. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.